considera l'ipotesi di non sentirti schiavo di nessuno mai. Decidere della tua vita in piena autonomia, casomai, senza preoccuparsi dei giudizi della gente, dell'ipocrisia, dei commenti ad alta voce, dell'invidia che non si lava più via. Inizia qui, ora girare un nuovo film, tu il protagonista, perché puoi sentirsi meglio, non è mai uno sbaglio. Ama come senti in ogni forma libera, perché anche tu lo sai, lo capirai, che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia. Ama in ogni forma che l'amore libera, perché anche tu così rinascerai, tutte le volte che amerai di nuovo. Mai del tuo istinto, della sua infallibilità, scegli il tuo alfabeto e la lingua, quella pura dell'anima. Riscrivi qui, riscrivi qui il tuo codice così, perché la vita è troppo corta per non viverla di corsa.